Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giro di Vol, vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. E questa sera a Giro di Vol uno studio gremito, un saluto da Annalisa in studio e da Roberto Giava in regia. Buonasera a tutti. Avremo Alessandra in collegamento, ciao Alessandra. Ciao Annalisa, ciao Roberto. Dunque, stavo dicendo uno studio gremito perché questa sera come ospiti, proprio per commentare insieme il tema di questa sera con il nostro ospite in collegamento, abbiamo il team di 100 città, la trasmissione che va in onda prima di Giro di Boa. Un caloroso benvenuto al conduttore Francesco Navarrini. Ciao Francesco. Buonasera, buonasera a tutti i nostri amici radioascoltatori. Benvenuto. E al regista di 100 città, nonché a volte anche regista di Giro di Boa, i nostri radioascoltatori lo conoscono, Giulio Minguzzi. Buonasera. Benvenuti. Se mi permetti, io volevo ringraziare i due ragazzi per essere presenti e dirgli che sono fantastici. Io ogni tanto l'ascolto la loro trasmissione e sono veramente fantastici, un tocco di vita, veramente. E a questo punto direi di raddoppiare il contributo di 100 città a 30 euro per chi ha appena parlato. Già abbiamo comunque. Bene, cari radioascoltatori, abbiamo in collegamento questa sera il dottor Emanuele Gatti dall'Italia. Emanuele, ciao e benvenuto a Giro di Boa. Buonasera, grazie. Dunque, abbiamo in collegamento Emanuele questa sera, perché Emanuele è l'autore di un articolo, di uno studio, intitolato Defining the Expat, The Case of High-Skilled Migrants in Brussels. È un articolo pubblicato dalla rivista Brussels Studies. Dunque, Emanuele è dottorato in sociologia presso l'International University Institute for European Studies di Gorizia. Si è occupato delle conseguenze della globalizzazione sulle persone, di postmodernità e di relazioni interpersonali. E questo articolo, appunto, che ha pubblicato su Brussels Studies è il risultato dei dati raccolti per preparare il dottorato e appunto ha condotto questo studio effettuando una serie di interviste qui a Bruxelles. Quindi uno studio che parla del ruolo degli expat a Bruxelles e che cerca di rispondere ad una domanda: è possibile veramente parlare di expat? È possibile categorizzarli? Facciamo tutti parte di una stessa categoria, oppure questa categoria è stata per così dire artificialmente creata? Approfitteremo quindi della presenza in studio dei nostri amici di 100 città, che credo saranno con noi per la prima parte della trasmissione per circa una ventina di minuti. Ma vorrei iniziare innanzitutto Emanuele chiedendo meglio a te quali sono gli interrogativi a cui hai cercato di dare risposta con questo studio. Sì, senz'altro. È chiaro che a tutti quelli che hanno vissuto a Bruxelles o in altre grandi città europee, che soprattutto nelle capitali, ma anche nelle piccole città dove però c'è una grande presenza di stranieri, che si formano delle comunità, e queste comunità vengono chiamate comunità di espatriati, anche se il termine tecnicamente è sbagliato, perché gli espatriati sono tutti coloro che vanno all'estero e che vivono permanentemente in un paese che non è il loro. In realtà il concetto di espatriato in letteratura è diventato ormai un concetto molto ben definito, molto meno però nell'uso comune e soprattutto nella descrizione della realtà a cui questo concetto fa riferimento. Quindi la prima domanda, come dicevi bene, era chi sono effettivamente gli expat, chi forma la comunità degli expat? E Bruxelles è un posto meraviglioso dove studiare un fenomeno simile, perché la comunità degli expat si calcola formata da almeno 100.000 persone. Il secondo punto è dell'articolo che tu hai citato, era invece sul modo in cui il tessuto economico e sociale di Bruxelles accoglie gli expat e quindi il modo in cui la città cerca di attirare gli expat oppure di creare una cultura degli espatriati. E come ben dicevi, questo è il risultato di uno studio. Questo studio in realtà andava ben oltre l'articolo che c'è qui, perché andava ad analizzare le relazioni interpersonali degli espatriati. Ma in effetti, per capire veramente che cos'è un expat, vedremo poi che è imprescindibile la presenza sul territorio e la relazione che viene mantenuta con il paese da cui si proviene. Emanuele, scusami, tu dicevi la relazione sul territorio, però si mantiene una relazione con l'Italia nel nostro caso, però bisogna anche cercare di capire qual è la relazione col territorio di accoglienza, diciamo così. Io parlo da expat, se si può così dire, perché comunque ho vissuto a Bruxelles da expat per 5 anni. Ora ho deciso di fare l'expat in un'altra parte d'Europa, per cui mi definisco una ex-expat di Bruxelles, ma comunque i ragazzi in studio sono tutti degli expat. Ma fondamentalmente, per quanto tempo tu definisci una persona expat? Nel senso, uno diventa un expat dopo il primo mese o dopo il primo anno? E uno si può considerare expat dopo 10 anni? Belle domande in realtà. O magari facciamo così, proviamo anche a chiedere ai ragazzi in studio. Soprattutto quella dei 10 anni la vorrei fare a Roberto. Ecco, giustamente io festeggiavo ieri 9 anni di presenza sul suolo belga. Mi merito, ne fate un applauso dallo studio. Al coraggio, una nazione al coraggio. E ancora si conserva. Non sapevo niente del compleanno, il complex patanno. 18 novembre del 2000, con la mia Golf 2, arrivavo con molta fatica dall'Austria, dove ero un expat in Austria prima. Poi mi sono trasferito qui. Quel giorno pioveva, ovviamente, faceva freddo. Non è cambiato molto. Poi per noi expat belgi, mettiamola anche un po' così sul... No, è un fattore molto determinante, molto importante. No, io mi ritengo ancora un expat, ma vorrei gettare sul tavolo una doppia definizione di expat. Io sono un expat, ma non per il pubblico impiego, cioè non come funzionario di alcuna... pubblica istituzione, ma nel privato. Lavoro per una società privata che ha qui un importante design center di microelettronica, e in questo contesto posso dire però che è vero, lavoro leggermente fuori Bruxelles, a Zaventem, però la mia vita si svolge in fin dei conti circondato di persone che sì, sono expat, sono per la maggior parte italiani, e rivendico questa mia aderenza linguistica quando scelgo i miei amici, che per la maggior parte lavorano nell'ambito delle istituzioni o grosso modo legati alle istituzioni europee. Non è il caso però di tutti. Emanuele, leggo che tu hai trascorso 6 mesi a Bruxelles, hai realizzato circa 30 interviste con giovani professionisti di età tra i 23 e i 35 anni provenienti da 25 differenti paesi europei. Ti posso chiedere quali sono le domande che tu hai rivolto a questi giovani espatriati per poter appunto portare avanti la tua ricerca, e eventualmente se puoi rivolgere ai nostri ospiti in studio le stesse domande, per vedere un po' quale tipo di profilo emerge dal racconto di Francesco e dal racconto di Giulio. Sì, le domande, il questionario era molto articolato, molto lungo, perché si trattava di interviste in profondità, quindi occorrerebbe molto tempo. Per fare però un breve profilo si possono chiedere quelli che vengono definiti tecnicamente i dati strutturali, che è una parola bruttissima per dire in pratica chi sei, da dove vieni. E quindi io chiedevo soprattutto, la prima cosa erano gli studi, la professione attuale, la professione dei genitori, le capacità linguistiche, se erano sposati oppure single. Beh, dunque, da chi cominciare? Giulio, cominciamo da te. Quindi tu quando sei arrivato a Bruxelles, diciamo, da dove vieni, che tipo di background hai, quante lingue parli? Vengo da Masiera City, ridente cittadina in provincia di Ravenna. Sono studiato ingegneria e sono venuto qui a fare l'ingegnere, un po' per caso, come secondo me molta gente. Spinto più che altro dalla voglia di fare qualcosa all'estero, non era in particolare Bruxelles che mi attirava, era la voglia di partire, di andare a fare. E che altro? Ho dimenticato le domande. Fidanzato o single? All'epoca fidanzato. E adesso? Finora fatto non perché andassi in giro, perché andassi in giro lo puoi vedere il guinzaglio della nostra sì. cara amica Elena quando è sabato sera. Ovviamente quel Francesco ha rivolto subito a Giulio la domanda più interessante. Quel fidanzamento durò più o meno una settimana. Ma sì, caro, non ti preoccupare, ci sentiremo tutti i giorni. Sì. Quindi Giulio, insomma, ti ha portato a Bruxelles il tuo desiderio di fare un'esperienza all'estero. Sì, esattamente. Quindi non necessariamente a Bruxelles. No, avevo fatto l'Erasmus durante i miei studi e la cosa mi era molto piaciuta, per cui volevo assolutamente fare un'esperienza simile. C'è chi definisce Bruxelles un Erasmus esattamente prolungato, diciamo, permanente. Ed è stata più o meno la mia esperienza per i primi 5 mesi, mi sono ritrovato in questo studentato con altre 15 persone. Di cui la metà lavoratori, istituzioni, ma per stage, quindi insomma gran voglia di far festa. E adesso no, adesso mi sono un po' stabilizzato e quindi sì, è ormai un anno e mezzo che sono qui, non so quanto starò ancora. Francesco, tu invece? Io arrivai in una fredda serata del 9 ottobre 2006, quindi sono... Ma raccontaci come, Allora, questa è molto interessante, l'ho già raccontato ai nostri amici ascoltatori di 100 città, e praticamente dunque io dopo la laurea mi ero detto questa cosa, chissà cosa vado a fare dopo la laurea, allora feci concorso per il Leonardo, che era una specie tipo di Leonardo, comunque il progetto è la stessa cosa. Bisogna passare gli esami di lingua e poi fare un esame orale, dunque l'esame passai, l'esame di spagnolo, l'esame di inglese, che era quello per Bruxelles, e spagnolo era per Barcellona. Mi chiamò quello delegato e mi disse: allora cosa vuoi, dove vuoi andare, hai passato sia Barcellona che Bruxelles, dove vuoi andare? Io, come Homer Simpson, pensavo: no, Bruxelles, no, Bruxelles, no, Bruxelles, no, Bruxelles, e io dissi: Bruxelles, certamente. E poi chiusi la comunicazione, provai a richiamarlo, rendendomi conto evidentemente dell'errore, provai a richiamare, ma era occupato perché nel frattempo stava avvisando tutti gli altri, quindi quando richiamai alla fine mi detto: guarda, il posto è già andato, quindi mi è venuto a Bruxelles, insomma, questa era come sono arrivato qui. La tua formazione invece, il tuo background? Scienze politiche, ho vissuto in Finlandia e nei Paesi Baschi. E di cosa ti occupi attualmente? Sono analista quasi finanziario. Emanuele, dal, diciamo, il racconto di Giulio, dal racconto di Francesco sono emersi dei tratti, diciamo, similari che hai già riscontrato anche nel corso delle altre interviste che hai condotto per il tuo articolo? Effettivamente sì, emerge un profilo molto ben determinato. Entrambi sono dei laureati, parlano diverse lingue. E entrambi hanno avuto delle esperienze all'estero precedenti attraverso dei programmi europei. La metà delle persone che ho intervistato, comprese quelle che non fanno parte della comunità europea, che perché ho intervistato anche delle persone dalla Moldavia, dalla Svizzera, dalla Norvegia, siccome loro possono usufruire di programmi molto simili all'Erasmus, anche loro avevano usufruito di questi programmi, quindi in effetti è un dato caratteristico abbastanza comune. E purtroppo, come diceva, mi pare, Giulio o Francesco, l'Erasmus prolungato permanente. Roberto dalla regia. Roberto è in Erasmus da 9 anni. L'Erasmus prolungato permanente può essere un po' l'idea di andare a Bruxelles con l'idea di fare appunto una esperienza di questo tipo, può essere un po' ingannatrice, perché in realtà la maggior parte delle persone che va a Bruxelles si ritrova in un contesto con una forte cultura professionale e quindi si ritrova prima o poi in forte competizione con altri espatriati che possono non avere lo stesso profilo di Giulio e Francesco. Giulio e Francesco hanno un profilo di persone arrivate quasi per caso a Bruxelles che non erano interessate a Bruxelles in quanto città per le opportunità che può offrire attraverso le istituzioni europee e che quindi io chiamo interested in diversity, cioè interessate alla diversità, volevano viaggiare. Erano persone che volevano viaggiare, volevano scoprire nuovi posti e si sono trovate a Bruxelles. L'altro tipo di persone che ho trovato a Bruxelles sono quelle che ho chiamato le opportunity driven, cioè quelle che inseguono le opportunità. E quindi per la loro carriera professionale avevano capito che il miglior posto dove andare era Bruxelles, che piacesse o no. Dunque le persone in realtà interessate alla diversità si possono trovare in un contesto abbastanza diverso da quello che immaginano, soprattutto se pensano di fare un secondo Erasmus e possono avere una delusione. Per questo succede che c'è un fortissimo turnover delle persone che si fermano a Bruxelles. Come dicevi, io ho intervistato i giovani, e tra i giovani, soprattutto quelli sotto i 30 anni, è fortissimo il ricambio fra quelli che arrivano e quelli che si fermano e quelli che vanno via. Quindi succede che molte persone stanno anche meno di 3 mesi a Bruxelles. Anche meno di 3 mesi, ma a questo punto, scusami, loro fanno parte di una comunità expat, hanno il tempo per ambientarsi, per sentirsi non in vacanza? A mio parere no. Tecnicamente, per il mio studio, ho stabilito in 3 mesi la durata minima di un'esperienza significativa all'estero, perché sotto i 3 mesi in pratica si rimane ancora imprigionati nei problemi dell'insediamento. Dopo, diciamo, il primo mese non si può più andare in giro tra le case degli amici, devi per forza trovarti un appartamento, devi stabilirti, devi avere un supermercato di fiducia, e quindi diciamo che secondo me 3 mesi è il minimo per poter dire ho vissuto in un posto, ho esperito un posto. Io avrei una domanda per i due ragazzi in studio, che credo che se ne andranno fra poco. Bisogna chiedere a Giulio per quello che è la macchina. Come? Bisogna chiedere a Giulio, perché lui che ha la macchina. Vai, spara. Io in realtà sto facendo di tutto per cercare di convincerli a rimanere con noi il più a lungo possibile. Comunque, come giustamente dicevi tu, Alessandra, approfittiamo della loro presenza. Sì, secondo voi, ragazzi, a Bruxelles esiste, per la vostra esperienza personale, una comunità expat, o esistono più comunità expat per via della provenienza geografica, per la lingua, cose di questo tipo? Ma allora, io tendo a vedere, secondo me, più molte comunità a seconda della provenienza, nel senso, quello che ho visto io è molti italiani, ho conosciuto molta gente che veramente non ha avuto nessun tipo di contatto né con belgi e né con altre comunità. Comunque, quando c'è da scegliere gli amici con cui uscire, si esce solo tra italiani, probabilmente per una facilità di dialogo, non so, secondo me è più questo. È più questo che succede in generale. Poi una vera comunità internazionale di expat io non l'ho percepita qui a Bruxelles. Non so cosa pensa Francesco. Io proporrei per esempio non so, per me invece di 3 mesi metterei la prima dichiarazione dei redditi come limite minimo per considerarsi esperiti in un posto, perché comunque è la prima volta che ti assumi le tue responsabilità e devi scrivere qualcosa su un pezzo di carta. Per cui io mi trovo d'accordo con, per il secondo punto mi trovo d'accordo con Giulio, per un semplice motivo. Io la vedo così, mi raggancio forse a un tema che è caro Emanuele, posso chiamarti Emanuele, cioè la liquidità della vita moderna, quella che Bauman diceva soprattutto sulle sue conseguenze della globalizzazione. Cioè, essendo Bruxelles una città molto fluida, dove c'è un alto turnover, dove in realtà la cultura non è ben definita, proprio anche questo è stato un recipient di immigrazione fortissimo dagli anni 30, quindi comunque abbiamo quasi un centinaio d'anni, quasi un secolo di immigrazione, di onde che si sono succedute. Ecco, probabilmente per persone, per individui che procedono da culture molto forti, quindi dove diciamo la vita liquida è solidificata attorno a tradizioni, attorno a lingue, attorno a valori molto forti, ecco, allora tendono a ritrovarli, tendono a sentirsi magari persi, quindi comunque hanno più fortuna quelle famose, insomma, i catalizzatori, insomma, quelle figure di solidificazione della vita liquida che fanno scegliere, per esempio, un italiano stare con un italiano o con spagnoli, piuttosto che un francese stare con i belgi o viceversa. Non so cosa ne se possa essere utile come. Emanuele, nel tuo studio tu hai anche analizzato i rapporti tra la comunità di espatriati, e ancora uso questo termine, diciamo, generalizzando, però abbiamo già capito che non è forse possibile, non è possibile farlo. Stavo dicendo, quindi hai analizzato i rapporti tra la comunità di espatriati e la popolazione di Bruxelles, i bruxellois, e ovviamente spesso emerge una certa riluttanza, anche difficoltà da parte della comunità internazionale a integrarsi con i belgi, con la popolazione di Bruxelles. Gli espatriati tendono a a parlare inglese, spesso molti di loro non parlano né francese né fiammingo. Ecco, ti vorrei chiedere quali sono i dati che sono emersi dal tuo studio circa questo aspetto, e poi vorrei girare la domanda a Giulio e Francesco, ancora approfittare della loro presenza in studio e chiedere qual è stata la loro esperienza finora in termini di interazione con i belgi qui a Bruxelles. La domanda che mi fa in realtà è forse quella fondamentale per capire la realtà degli espatriati a Bruxelles, perché ci sono due elementi fondamentali che vengono presi in causa. Il primo elemento è il tempo. Gli espatriati a Bruxelles rimangono per un periodo di tempo normalmente limitato, o credono che rimarranno per un periodo di tempo limitato. In realtà molti poi si fermano per 10, anche 20, anche 30 anni. Quello che succede è che arrivano con l'idea di fermarsi il tempo di fare un'esperienza, per così dire, e dopodiché rimangono nella città. È chiaro però che la percezione che si ha del tempo, quindi la percezione di una esperienza, per così dire, transitoria, fa sì che ci sia una scarsa motivazione da parte di molti, non dico di tutti, ma di molti espatriati a integrarsi con il tessuto urbano della città. Questo ha diverse conseguenze. Dal punto di vista degli espatriati significa che diventa più facile cercare di rimanere all'interno della comunità degli expats, perché c'è una lingua comune che è l'inglese, perché è possibile trovare persone che vengono dal proprio paese e perché l'esperienza bene o male è simile, quindi c'è una, come dire, anche una comunità del sentire. Dal punto di vista invece dei Bruxellois si crea un fenomeno opposto, perché gli espatriati rimangono una comunità distante, vista attraverso delle figure stereotipate che sono prevalentemente senz'altro quella del funzionario della Commissione Europea, e soprattutto delle persone che hanno dei privilegi. E qua si arriva al secondo punto fondamentale, che è lo status degli espatriati. La relazione fra gli espatriati e le popolazioni di Bruxelles, parlo di popolazioni perché dobbiamo ricordare che c'è anche una forte comunità di migranti tradizionali, è tutta caratterizzata dallo status sociale. E non si può capire la natura della comunità degli expat se non si fa una riflessione sull'importanza dello status sociale per un expat. Adesso, senza entrare in dettagli, la comunità degli expat si sente superiore alla comunità dei migranti tradizionali e viene percepita dai Bruxellois come una comunità di persone privilegiate, ma per delle sciocchezze, per esempio perché magari parcheggiano la macchina in divieto di sosta e a loro non viene fatta la multa. Dico una sciocchezza, però può accadere, ecco, mi sono stati portati questi esempi. E quindi si crea una sorta di distanza artificiale dal punto di vista generale, della comunità generale. Poi nei casi individuali è facile invece che delle persone che si fermano per diversi anni in un paese e che lavorano con persone di quel paese intessano delle relazioni con i Bruxellois. Come dicevo prima, vorrei ora girare la domanda a Giulio e Francesco, ma anche ad Alessandra in collegamento, e perché no anche al direttore Roberto Giava in regia. Cominciamo dagli ospiti qui in studio. Francesco. Cominciamo dagli ospiti qui in studio. Cominciamo da Francesco. Emanuele ha toccato un punto molto, molto vero. Bruxelles, al di là di quanto si possa pensare, in realtà è una città ancora povera. In realtà, dove l'immigrazione tradizionale è per adesso, secondo da quanto ne posso vedere io, superiore a quella della nuova immigrazione, insomma, dai low skill, dai high skill, come possiamo pensarle così. Quindi, comunque, è vero. Ci sono certe volte, ci sono insomma quartieri dove c'è una predominanza di expats, e questi sono, guarda caso, i quartieri dove vengono spaccate più più vetri alle macchine, vengono più, cioè, comunque c'è una certa divisione, insomma, sul fatto che gli expat si sentano superiori. Sullo stato sociale dell'expat non ci giurerei troppo. Io, per esempio, nella mia esperienza personale non l'ho visto, né si tende un po' magari a ridere un po' del belga perché è troppo complicato, cioè fiammingo, vallone, metà neerlandofono, insomma, quello sì, però per il resto non. E per quanto riguarda invece l'opportunità di stabilire amicizie o rapporti con i belgi, tu parli francese, sì, o olandese, hai amici belgi? Io ho vissuto in casa di un belga, quindi sì, no, non ho avuto personalmente problemi. Ci vuole un po' a capire dove si riuniscono, però se per me non ho avuto particolari problemi. Giulio, tu invece? A livello di esperienza ho avuto la fortuna, e la reputo veramente una fortuna, di entrare subito in contatto con ambiente francofono belga. E quindi sì, secondo me per questo ho avuto un'esperienza abbastanza tipica rispetto al 90% delle persone che invece vengono un po' risucchiate anche da questa comunità di expat, per cui secondo me finiscono per non vedere la vera Bruxelles o vedere una finta Bruxelles. Poi volevo fare un'altra considerazione sul fatto che secondo me un elemento che veramente spacca in due queste due comunità è il ritmo di vita, nel senso il belga per tradizione va a lavorare molto presto, finisce alle 5, alle 6 mangia, quindi la sua giornata è veramente altri tempi. Mangia freddo se ha già mangiato caldo a pranzo o viceversa. Mentre il tipico stereotipo del funzionario finisce alle 7:30 il lavoro, aperitivo, rientra a casa alle 9, e purtroppo è vero, è uno stereotipo, però... No, funziona. È una cosa che qui a Bruxelles si sei vede. Stato anche un po' troppo ottimista. Oggi ero all'ora di pranzo in un paesino che si chiama Meise, nel nord di Bruxelles, e dovendo aspettare una persona che era in ritardo per tre quarti d'ora, sono entrato in un ristorantino per mangiare, avevo fame. Era pieno, c'erano tante coppiette di pensionati, di persone varie, così, un'altra umanità che non, almeno io personalmente non vedo tutti i giorni. Però pensavo un po' anche al fatto che adesso quella coppietta di fronte a me hanno finito di mangiare, hanno preso il caffè, si alzano, più o meno sugli 80 anni, 75-80 andanti più o meno, beh, la loro giornata era finita lì, perché a quel momento è tutto finito, loro all'una avevano finito, tornavano a casa e basta, non avrebbero più cenato la sera, o come diceva giustamente Francesco, se hanno mangiato bene a pranzo la sera è un optional mangiare, e abbandonarsi poi fra le piaghe di Orfeo già alle 18. Ecco, questo è un elemento che mi ha fatto molto riflettere oggi. Roberto, tu sei riuscito a stabilire relazioni di amicizia con belgi qui a Bruxelles? Devo essere sincero? Nessuna. No, siamo in radio, non ti vede nessuno. Tantissimi amici belgi. No, io ho molta stima, ho lavoro da tanto tempo, come ho detto prima, da oltre 9 anni con belgi, per la maggior parte anche del nord, fiamminghi. Ho molta stima del loro modo di lavorare, della loro capacità professionale, della serietà, della puntualità, di tante caratteristiche positive che non sempre vediamo in tutti quelli che provengono invece dai paesi più caldi. Però ecco, al di là di questo, ho una vita intanto non da aperitivo tutte le sere, già di mio, per cui io mi piace anche dopo il lavoro tornare a casa e rilassarmi sul divano o vedere pochi amici. Fa parte anche un po' di me questo. Questo è anche per il motivo per cui non ho mai avuto la spinta a dovermi integrare necessariamente con i belgi. Alessandra, invece, qual è stata la tua esperienza nel corso della tua permanenza di diversi anni qui a Bruxelles? Beh, non entrerei nella giungla dei commenti sul cibo e sul clima, perché insomma sono in un paese che magari è ancora peggio del Belgio, per cui... cosa posso dire? Sì, parlando francese è stato un po' più facile, però secondo me è profondamente, profondamente difficile integrarsi. Io sono riuscita ad avere delle persone che considero degli amici dopo anni, che abbiamo condiviso qualcosa, uno sport, ma dopo 2 o 3 anni, veramente. Perché? Perché loro ti vedono veramente come quella che sei lì e che domani non ci sarai, che tanto te ne andrai, che non sai quanto tempo starai, e soprattutto quello del fatto del privilegio. magari noi quanto expat non lo sentiamo, però la percezione loro hanno, loro i Bruxellois hanno la percezione che noi sfruttiamo questo status di privilegiato, che comunque ci danno dei privilegi, e a questo a loro dà fastidio. Poi ovviamente però quando ti conoscono ovviamente si rendono conto che non è che tu giochi sui privilegi e comunque sei una persona normale, ti apprezzano per quello che sei. Io però avevo una domanda per Emanuele, perché lui diceva di aver fatto 30 interviste a expat. Hai fatto anche delle interviste ai Bruxellois? E se sì, quante? In realtà ho fatto un po' più di 30 interviste, e tra queste ho cercato di intervistare alcune persone di Bruxelles. Sono riuscito ad avere delle interviste complete da 3 persone, quindi diciamo il 10%. Quello che è emerso è stata una conferma delle impressioni ricevute dagli altri, e in particolare mi ha colpito molto l'intervista di una ragazza che era una giovane professionista, viveva nella periferia di Bruxelles e ha mostrato delle posizioni che poi ho scoperto essere relativamente comuni, insomma, tra la popolazione belga, o meglio tra la popolazione di Bruxelles, che tendevano a differenziare molto le due comunità, quella degli espatriati e quella dei migranti tradizionali, soprattutto nordafricani. E quindi loro, diciamo, lei diceva: sì, io mi trovo molto bene con gli espatriati, e nella mia compagnia ci sono diversi stranieri, noi ci troviamo bene, però ecco, personalmente, insomma, tendo a tenere a distanza invece tutte le persone la cui migrazione è molto più visibile, no? Magari per una diversa religione o colore della pelle. Quindi credo di nuovo che al di là di quella che può essere l'esperienza individuale, conti comunque molto un elemento sociale condiviso. Fare una breve pausa musicale, Emanuele rimani in collegamento, dobbiamo purtroppo salutare i nostri ospiti, Francesco Navarrini, conduttore di Centocittà, Giulio Minguzzi, regista di Centocittà, grazie ragazzi per essere stati con noi e per il vostro contributo a Giro di Boa questa sera. Saluterei anche Giacomo, che per un caso fortuito non è con noi stasera, è malato. Il secondo conduttore di Centocittà. Certo. Un saluto anche a Giacomo, grazie ragazzi, speriamo di riavervi presto ai microfoni di Giro di Boa, e un buon proseguimento con Centocittà. Grazie, ciao. Cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera ci occupiamo di espatriati a Bruxelles, stiamo analizzando e discutendo il ruolo degli expat a Bruxelles, e soprattutto stiamo cercando di capire se è possibile definirli in una categoria omogenea. Lo stiamo facendo con Emanuele Gatti, che ha conseguito un dottorato in sociologia presso l'International University Institute for European Studies di Gorizia, e si è occupato delle conseguenze della globalizzazione sulle persone, e si è occupato di postmodernità e di relazioni interpersonali. Emanuele è l'autore di un articolo, di uno studio intitolato Defining the Expat, the Case of High Skilled Migrants in Brussels. E appunto Emanuele ha cercato con questo suo articolo, ma ovviamente anche con altra ricerca, di dare delle risposte a questi interrogativi. Emanuele, un tema che ancora non abbiamo trattato, sei di nuovo in collegamento, ci senti? Sì, benissimo. Un tema che ancora non abbiamo trattato e che tu hai sviluppato nel tuo studio è come, diciamo, la comunità belga qui a Bruxelles, come per esempio i media, la città di Bruxelles, come tutti gli enti che offrono servizi alla comunità internazionale, abbiano forse artificialmente creato questa categoria di espatriati, appunto con tutta una serie di servizi specialmente mirati agli espatriati. Pensiamo per esempio a tutti i media, a tutti i giornali in lingua inglese, ovviamente il primo che ci viene in mente è il The Bulletin, tutti gli eventi che vengono organizzati specialmente per la comunità internazionale. Ecco, potresti elaborare per i nostri ascoltatori questa parte della tua ricerca? In effetti questo è proprio il punto centrale dell'articolo, che ricordo è scaricabile dal sito brusselsstudies.be. Quello che a me interessava vedere era capire se l'idea, il concetto di espatriato era socialmente formato, come si dice, ovvero veniva dall'esterno, dal tessuto sociale della città, oppure era il prodotto degli expat stessi. In realtà, se ci guardiamo intorno, se facciamo un giro a Bruxelles, ci rendiamo subito conto che l'influenza di svariati organismi sulla cultura degli expat è fortissima. Questi organismi sono istituzioni di ogni tipo, dalle banche, le assicurazioni, le società per le relocation, le agenzie per trovare casa, e poi ci sono tutte c'è tutto il tessuto del divertimento, il settore dell'informazione, appunto, con riviste, con siti, eccetera. Tutti questi organismi cercano di attrarre in qualche modo il pubblico degli espatriati, offrendo dei prodotti che sono specifici per quel target. Molti conosceranno per esempio degli eventi che si svolgono in alcune discoteche a Bruxelles e che sono dedicati espressamente agli espatriati. Viene richiesta una tessera per entrare, c'è una iscrizione nella quale viene chiesto che lavoro si fa e come mai sia a Bruxelles, eccetera. E questo tipo di eventi chiaramente è fatto apposta per far incontrare persone che avrebbero difficoltà a integrarsi col territorio se non ci fosse appunto tutto un tessuto che li aiuta. Per esempio, una persona che viene da un altro paese può avere dei problemi con il conto bancario, quindi è necessario che ci siano delle banche che offrano dei conti bancari apposta per le esigenze di queste persone. Ora, tutto questo sistema di organismi, siano essi appunto professionali, appunto tipo le assicurazioni, o diversamente che riguardino solo il divertimento, in realtà veicola un'immagine ben determinata dell'espatriato, che è quella di una persona di successo, molto guidata dalla carriera e dal proprio orientamento professionale, che suo malgrado si ritrova a Bruxelles, che magari non ha scelto di essere in quella città, ma ormai si trova sotto la pioggia di Bruxelles, e quindi siccome ha fatto tanto per arrivare lì e sta seguendo una brillante carriera, merita il meglio, e meritando il meglio ha diritto ad avere i servizi offerti da quell'organismo. Questa in breve l'immagine trasmessa da questo tipo di enti. Bruxelles è una realtà molto, molto particolare in Europa, nel senso, come ricordavamo prima, ci sono le istituzioni comunitarie che hanno sede a Bruxelles, ci sono grosse società, grosse ditte che hanno il loro quartier generale a Bruxelles o nelle vicinanze, proprio per la posizione geografica probabilmente che Bruxelles ricopre un po'. Secondo te, Emanuele, questo ha influito sulla presenza degli expat, come abbiamo visto? Io volevo sapere perché tu hai scelto Bruxelles come oggetto del tuo studio e non per esempio Dublino o Barcellona? In realtà anche per me, come per Giulio e Francesco prima, è stato un po' un caso, nel senso che io sono andato a Bruxelles perché c'è stata una coincidenza di fattori. Io stavo cercando il modo di fare uno studio all'estero durante il mio dottorato, però contemporaneamente stavo lavorando per una ditta di consulenza che mi ha chiesto, siccome era una ditta che lavorava con progetti europei, di andare ad aprire una nuova sede a Bruxelles. E quindi ho potuto, diciamo, vivere la comunità degli expat dall'interno, essendo un expat io stesso. E chiaramente questo mi ha permesso di studiare approfonditamente la comunità di Bruxelles, e poiché avevo avuto delle esperienze all'estero proprio a Dublino e a Barcellona, ho potuto confrontare l'esperienza che ho avuto a Bruxelles con quelle di Dublino e Barcellona. Devo dire che si tratta di comunità completamente diverse, tanto che in questo periodo vorrei fare ulteriore ricerca per sviluppare una sorta di teoria su questo, perché la realtà di Dublino, per esempio, è molto diversa, perché nonostante anche lì ci siano le sedi principali di moltissime corporations, quello che succede è che a Dublino c'è una cultura molto più rilassata. Moltissime persone vanno a Dublino per imparare fondamentalmente l'inglese, per farsi una scuola di lingue, quindi con uno spirito Erasmus, per così dire, e poi si ritrovano a fermarsi e quindi accettano un lavoro in una multinazionale. Scusami Emanuele, ma a Dublino gli expat rappresentano il 10% della popolazione cittadina? Purtroppo non ho dei dati su questo, non sono sicuro che si possa parlare di expat, perché a Dublino c'è senz'altro un'enorme percentuale della popolazione composta da stranieri, però si tratta in molti casi di persone che si fermano per poche settimane perché vanno a farsi un corso di inglese. Quindi a parte il fatto che appunto probabilmente, come tu dici, la comunità quantitativamente non è paragonabile, probabilmente c'è anche un ricambio talmente forte che non si può parlare di una comunità come quella di Bruxelles. Mentre a Barcellona che tipo di... Barcellona è una realtà ancora diversa, perché è animata da una fortissima immigrazione dai paesi sudamericani e inoltre da un fortissimo flusso di espatriati. La comunità di espatriati a Barcellona è piuttosto grossa, anche se anche lì non ho dati quantitativi. Quello che succede è che lì le persone tendono a fermarsi per diversi anni. Si tratta in special modo di persone interessate all'architettura che fanno delle esperienze fondamentali negli studi prestigiosi della città. E chiaramente siccome la realtà di Barcellona è una realtà diversa da quella di Bruxelles, attira molto di più il turismo e non si va tanto per lavorare in multinazionali quanto proprio per vivere la città, quindi molte persone decidono di andare a Barcellona perché attratti sia dalla Spagna sia dalla città in sé, anche lì ci sono delle differenze fortissime rispetto alla comunità di Bruxelles. Emanuele, nel corso delle tue ricerche, che idea ti sei fatto su come è cambiato il volto di Bruxelles, di questa città, con il crescere della comunità di espatriati? Ricordiamolo ancora, una comunità che rappresenta il 10% della popolazione, secondo i dati del Brussels Europe Liaison Office. Credo che l'immagine che descrive le ondate di migratorie a Bruxelles sia proprio quella dell'onda, no? Cioè un fluire di persone che ha seguito le principali trasformazioni politiche ed economiche che hanno caratterizzato l'Unione Europea. E negli anni ci sono state diverse ondate, all'inizio c'erano le ondate migratorie provenienti dal sud Europa, che erano ondate di migrazione tradizionale. E l'ultima grandissima ondata che c'è stata è stata quella con l'allargamento ai paesi dell'est dell'Unione Europea, e quindi quella delle persone che sono state chiamate a lavorare non solo nella Commissione Europea e nell'Unione Europea, ma anche in tutte le istituzioni che nell'indotto della Commissione Europea, che è in realtà molto più grande. Questa ondata è stata percepita, io non ero lì quando c'è stato l'allargamento, però molti mi hanno descritto che si è potuto percepire questo aumento di popolazione di espatriati. Tra l'altro è anche rilevabile dai dati quantitativi che prodotti dal Comune di Bruxelles e dallo Brussels Europe Liaison Office. Ma allora io ti faccio una domanda verso il futuro: cosa potrebbe succedere, uno, se la Turchia entra in Europa, e due, l'Europa. Era proprio questo. Come potrebbe cambiare Bruxelles nei due ipotetici scenari? Secondo me, questa è una mia personale opinione, se la Turchia dovesse entrare in Europa, senz'altro si avrebbe una nuova ondata migratoria a Bruxelles. Non so dire nulla sulle proporzioni di questa ondata, però senz'altro ci sarebbe un flusso rilevabile, ecco. Se la Turchia non entra in Europa, io credo che la popolazione degli espatriati tenderà nel prossimo decennio a stabilizzarsi, perché la Commissione europea ha ormai raggiunto una sorta di ampliamento limite, per cui i successivi ampliamenti non saranno così intensi, così forti come quelli cui abbiamo assistito finora. Anche l'indotto comincia ad essere abbastanza popoloso di società, di organismi pubblici, eccetera. Quindi io credo che ancora per i prossimi 10 anni ci sarà una crescita progressiva, non esplosiva ma lenta, dopodiché si tenderà ad avere un assestamento della popolazione degli espatriati. Ripeto però, non ho la sfera magica, quindi è solo un'opinione personale. Emanuele, quali sono quindi le principali conclusioni, le principali risposte che tu ti sei dato terminata questa ricerca? Credo, per quanto abbiamo discusso qui questa sera, un dato molto molto importante è, come dicevo prima, il fatto che le istituzioni che operano a Bruxelles determinano in maniera forte l'immagine dell'espatriato. Gli espatriati, quando arrivano a Bruxelles, percepiscono questo tipo di cultura e questo va a incidere sulla propria autopercezione. Dicevo prima che un elemento molto importante per gli espatriati a Bruxelles è lo status. Con questo non voglio dire che tutti si danno arie, ci mancherebbe ancora. Dico però che siccome molte persone in realtà fanno dei sacrifici per stare a Bruxelles, perché a differenza di quanto si crede, molte persone vanno a Bruxelles con degli stage che nemmeno sono retribuiti e quindi lavorano duramente per entrare in un determinato sistema, che può essere quello della Commissione europea oppure quello dell'indotto della Commissione. Queste persone cercano delle gratificazioni e sono spinti da questa immagine che viene loro offerta a cercare queste gratificazioni in un'idea di un professionista affermato. E così, per fare un sorriso, ti racconto un aneddoto a cui facevo molto caso quando ero a Bruxelles, ed è il fatto del badge. Tu sai che nel Parlamento europeo, per esempio, è necessario andare in giro, andare per gli uffici portando un badge di riconoscimento, no? Un'etichetta. Quello che succede è che poi molte persone indossano quel badge per andare poi all'after hour a bere l'aperitivo. Verissimo. E questo è evidentemente un modo di dire: guarda che io lavoro al Parlamento europeo. In realtà poi tutti sanno che normalmente quelle persone sono degli assistenti o degli stagiaire, eccetera, per cui rivestono in realtà delle posizioni poco significative, però è un modo per dire: guarda che il mio status è alto, anche se in realtà non lo è. Siamo quasi in chiusura. Tu, Alessandra, hai altre domande per Emanuele? Sì, magari una domanda: che cos'è che gli è piaciuto di più di Bruxelles dopo sei, c'è stato 6 mesi per fare questo studio? C'è un ricordo particolare, una cosa particolare che ti ha colpito, che ti rimane nel cuore o nella memoria di Bruxelles? Purtroppo devo dire di no, la città non mi ha colpito, è stata anche la natura della mia esperienza, poiché lavoravo e facevo ricerca allo stesso tempo, quasi non ho avuto tempo per dedicarmi al divertimento. Non hai fatto vita d'expat? L'ho fatta, ma poco, meno di quanto la fanno i veri expat. E questo certamente ha inciso molto sul ricordo che ho di quell'esperienza. La cosa senz'altro che mi ha lasciato di più è stato proprio l'incontro con tutte queste persone, molto più dell'incontro che ho avuto, per esempio, che si poteva avere appunto ai famosi after hour quando tutti si ritrovano per fare delle chiacchierate. Quelli trovo che siano molto superficiali. Invece le persone che ho incontrato si sono veramente aperte con me e mi hanno raccontato veramente dei pezzi della loro vita. Ricordo in particolare una ragazza, mi pare fosse estone, che mi diceva che aveva il proprio ragazzo in Estonia, ma intendeva mantenere questa relazione a distanza. Al che io maliziosamente le chiesi, e tu gli fai le corna? E lei arrossì un po' e disse, no, io mi sono messo a ridere, lei disse, ma te lo direi. E mi colpì molto quella frase, perché era molto sincera, diceva, no, guarda, io sarei completamente aperta con te. Quindi penso che quello che mi ha dato di più sia stato proprio avere la possibilità di incontrare, seppur brevemente, ma intensamente, queste persone. Emanuele, noi ti ringraziamo per essere intervenuto a Giro di Boa questa sera, per il tuo interessante contributo. Vuoi ricordare ai nostri radioascoltatori dove è possibile scaricare il tuo articolo, il tuo studio su internet? Sì, il sito si chiama Brussels Studies, è tutto attaccato, .be. E c'è tutta una serie di articoli su Bruxelles, tra i quali anche il mio. Benissimo, noi ti ringraziamo ancora e un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro e i progetti futuri. Grazie ancora e buona serata. Buona serata. Siamo in chiusura, mi fanno cenni dalla regia che siamo in chiusura, ribadisco, quindi non ci sono annunci di altro tipo, se non, cari radioascoltatori, direi a risentirci la settimana prossima. Alessandra? Sì, buona serata a tutti e alla prossima settimana. A risentirci e un ringraziamento come sempre a Roberto Giava in regia.